Europa 24. Buongiorno da Gigi Donelli, benvenuti all'appuntamento con l'Europa che anche oggi riparte dai confini della Pannonia, dunque sul Danubio. È andato questa mattina Johannes Hahn, commissario dell'Unione Europea all'allargamento, accompagnato dal premier serbo Vucic, ha visitato il centro di accoglienza profughi a Sid, questo nella Serbia nord-occidentale, sta parlando dunque con croati e serbi per affrontare l'ultima emergenza, diciamo quella blocco della frontiera deciso dalle autorità di Zagabria, che di fatto accusano i serbi di approfittare della crisi dei profughi siriani per attivare repentini traffici di persone lungo appunto la frontiera, che lo ricordiamo in Serbia è quella della Serbia, in Croazia è quella esterna dell'Unione Europea. Ovviamente la Croazia l'ultimo stato, l'ultimo arrivato nei 28 dell'Unione dallo scorso anno. Ecco, in tutto questo, mentre a Bruxelles si analizza, si entra nei dettagli della decisione presa nei giorni scorsi in tema di ricollocamenti, c'è dunque il tempo e l'occasione di fare i primi conti, perché il principio è passato, cioè quella della distribuzione tra i paesi, ma naturalmente ora si tratta di passare ai fatti. Sentiamo il servizio. Via libera dall'Italia per il ricollocamento in altri paesi di 40.000 profughi. Ma abbiamo 40.000 profughi da ricollocare? Analizzando i dati disponibili dal Ministero dell'Interno, il ricollocamento difficilmente inciderà sulla situazione degli stranieri presenti nel nostro paese. Infatti l'accordo riguarda profughi in evidente necessità di protezione internazionale, in particolare siriani ed eritrei. Ma proprio queste due nazionalità da alcuni anni considerano il nostro paese solo una terra di transito. Non si fermano e non chiedono asilo. Su 32.000 eritrei sbarcati nel 2015, ad esempio, solo 149 hanno presentato richiesta di asilo. Su 6.800 siriani, coloro che hanno presentato richiesta di protezione internazionale sono appena 132. Numeri che ad oggi non consentirebbero neanche lontanamente di coprire la quota di ricollocamenti previsti per l'Italia. Come spiegava anche il prefetto Angelo Trovato, presidente della Commissione Territoriale Asilo, in un'audizione alla Commissione Schengen di giugno. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questo per quanto riguarda dunque l'applicazione degli accordi che sono stati presi. Approfitto per ricordarvi che Radio 24 continua il suo viaggio lungo le frontiere esterne dell'Unione Europea. Questo fine settimana ci occuperemo della frontiera orientale, quella che dalla Polonia, Slovacchia, Ungheria guarda verso l'Ucraina e la Bielorussia. Poi torneremo nel cuore del Mediterraneo, dove proprio in questi giorni si attivano gli hotspot della parte italiana, cioè quei 600 di controllo che avranno il compito, il dovere di registrare e organizzare il flusso dei profughi. Allora cambiamo invece tema e parliamo naturalmente di Volkswagen, l'altro grande soggetto di queste giornate internazionale ed europee. Allora, la riunione per l'omologazione degli omologatori, anzi si terrà il 6 ottobre a Bruxelles. Si tratta del comitato tecnico composto dalle autorità nazionali. Insomma, l'Unione Europea anche su questo punto si scopre in ritardo e cerca di fare buon viso a cattiva sorte di una crisi che è esplosa e che pone numerosi interrogativi circa il modo di controllare queste emissioni. Il principio generale è che l'Unione Europea definisce i termini, definisce il quadro complessivo, ma non ha nessun potere di controllo. Il servizio. Bruxelles chiede ai singoli stati di fare chiarezza sui numeri delle auto truccate. Solo quelle Volkswagen sono 11 milioni e valuta la creazione di un'autorità indipendente che in futuro vigili su tutti. Servono test rigorosi sulle emissioni inquinanti, ribadisce la Commissione Europea, e il Regno Unito annuncia l'avvio di un'inchiesta. La Francia farà controlli su un centinaio di auto, l'Italia almeno su 1.000, anche se le macchine sospette sono 1 milione, spiega Del Rio. La Germania, dal canto suo, rincara la dose. Sappiamo che anche in Europa ci sono veicoli con motori diesel manipolati, avverte il ministro dei trasporti tedesco. Dopo Volkswagen a circolare il nome di BMW, che si difende. Siamo a norma in tutti i paesi, dicono dalla casa madre. Il titolo però perde il 5%, il settore auto soffre e Fiat Chrysler segna meno 7,5%. così il presidente Elkan. Indubbiamente quello che è avvenuto è molto grave, vedremo di capire meglio adesso che le indagini proseguiranno. A Torino la procura apre un fascicolo, mentre a Wolfsburg tutti scommettono che dopo Winterkorn a prendere le redini della casa tedesca sarà Matthias Müller di Porsche. Livia Zancanera, Radio 24, il Sole 24 Ore. E per ora è tutto per l'Europa, naturalmente appuntamento questa sera, poi da lunedì per la nostra settimana. Un saluto a tutti da Gigi Donelli. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.